figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questa puntata che sarà tutta dedicata alla Bolivia. Questo paese ha ospitato a metà aprile la terza fiera internazionale dell'acqua e è anche un paese simbolo perché nel 2000, vi ricorderete probabilmente, c'è stata la guerra dell'acqua che ha sconvolto la città boliviana di Cochabamba. Drammaticamente ha imposto alle cronache internazionali la tematica del diritto all'acqua. In Bolivia continuano a non avere accesso all'acqua potabile 2,3 milioni di persone nel paese, di cui il 75% concentrato nelle aree rurali. E mentre in Italia si discute in questo periodo di privatizzazione, o meglio liberalizzazione, in Bolivia il governo italiano sostiene un progetto per l'acqua pubblica. Ne fanno parte 3 ONG consorziate. Noi abbiamo raggiunto al telefono a Cochabamba Stefano Archidiacono del CEVI, che ci ha raccontato cosa stanno facendo. Questo progetto si propone di favorire l'accesso all'acqua per le comunità residenti nella zona periurbana della città di Cochabamba. In Italia c'è un grande dibattito adesso perché è prevista una privatizzazione della distribuzione dell'acqua. Immagino la situazione sia completamente differente, ma quali sono i nodi, le problematiche che ci sono in Bolivia? Sì, la Bolivia è un punto di riferimento, è una storia molto importante e simbolica rispetto all'acqua. Nel 2000 è successo un evento che ha chiamato l'attenzione del mondo, la cosiddetta guerra dell'acqua. Quindi di fronte a un tentativo di una privatizzazione delle risorse idriche avvenuto proprio nella città di Cochabamba, un tentativo selvaggio dove non solo è stato privatizzato il servizio d'acqua, ma la risorsa stessa, in quanto l'acqua della pioggia era diventata un bene economico. Questo ha provocato una rivolta popolare durata per diversi giorni, dove la popolazione si è confrontata e scontrata con l'esercito fino a cacciare la multinazionale, in questo caso la Bechtel di San Francisco, che si era impadronita di tutte le risorse idriche della città. Diciamo, questo evento ha chiamato un po' l'attenzione del mondo, è considerato come uno dei primi atti che hanno fatto nascere un movimento internazionale che difende la sovranità pubblica sul bene acqua, in quanto l'acqua si considera un diritto e non una merce. E allo stato attuale qual è la situazione? Allo stato attuale la Bolivia nell'anno scorso ha varato una nuova costituzione dello Stato che riconosce l'acqua come un diritto umano ed è una delle prime costituzioni, insieme a quella dell'Uruguay e dell'Ecuador, che riconoscono appunto l'acqua come un diritto. Tuttavia la Bolivia è come abbiamo ricordato prima, è un luogo dove l'acqua è spesso causa di problemi. Nella stessa città di Cochabamba, dopo la ripubblicizzazione dell'impresa pubblica, non si è ancora riusciti a dare una risposta alla necessità di tutta la popolazione e ci sono ancora molte comunità che non sono allacciate all'acquedotto municipale e che attraverso dei pozzi comunitari si riforniscono di acqua, però con dei gravi problemi per quanto riguarda la qualità e anche la quantità del liquido. E voi che cosa fate esattamente? Noi stiamo lavorando nelle periferie della città di Cochabamba e stiamo appoggiando diverse esperienze che sono nate per dare una soluzione al problema dell'acqua. Quindi nei quartieri si sono create delle organizzazioni locali che hanno perforato pozzi, costruito delle reti, costruito i serbatoi e si sono conformati o in comitati d'acqua o in cooperative. Si calcola che nella città ci sono 100 di queste cooperative. Noi lavoriamo nei quartieri e forniamo assistenza tecnica e formazione sulla gestione dei servizi idrici e anche sensibilizzazione rivolta a tutti gli abitanti del quartiere su un uso sostenibile della risorsa. Questo progetto è un progetto consorziato, siamo 3 ONG italiane, è un progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiani, è italiano, siamo 3 ONG italiane, l'ONG CEVI di Udine che io rappresento e siamo insieme all'ONG Acra di Milano con una rappresentante che lavora qua a Cochabamba e l'ONG CVCS di Gorizia. Quindi tre ONG italiane che si sono messe assieme per aiutare i boliviani ad avere una gestione comunitaria, mi pare di capire, oltre che pubblica, dell'acqua. Sì, effettivamente il dibattito in Bolivia è andato oltre al pubblico privato, diciamo, che si sta affrontando adesso in Italia, no? E si parla anche di comunitario, quindi di una gestione dell'acqua che è legata a una comunità, a un quartiere, che è al di fuori della sfera, diciamo, pubblico-statale. Oltretutto, rispetto alla situazione italiana, qui si parla della difesa proprio dell'acqua, del bene acqua, non solo della struttura attraverso la quale si porta poi l'acqua nelle case. Sì, indubbiamente il popolo boliviano, quando è sceso in strada per difendere la propria risorsa, appunto difendeva la propria possibilità di gestire l'acqua in maniera autonoma, quindi con le proprie regole che spesso sono anche legate a un modo di vivere tradizionale, quindi legato anche alle comunità indigene che costituiscono il 60% della popolazione della Bolivia. Quindi una forma anche di considerare e di gestire l'acqua che ha delle radici molto antiche. E restiamo in Bolivia con il dottor Pietro Gamba, un medico originario di Bergamo che lavora in questo paese come medico da molti anni. Ha vinto il premio Tacunda istituito dal CESVI, un riconoscimento che viene dato ai progetti di cooperazione internazionale che nel corso dell'anno si sono distinti per utilità sociale e innovazione. Allora sentiamo il dottor Gamba che abbiamo raggiunto proprio in Bolivia. Io sono venuto in Bolivia nel 75. Quando ancora giovane, avevo 23 anni, per vedere un po' anche di mondo da un altro punto di vista, anche la vita stessa. Mi ero appoggiato a quel tempo ai qua diocesani Fidei Donum e volontario sulla realtà del campesino. Lei in Italia che cosa faceva prima di partire? Avevo un titolo di tecnico, tornitore meccanico, e avevo lavorato 3 anni circa in una fabbrica, tornitore. Poi è tornato, diceva, in Italia. Questo tempo che ho fatto in Bolivia dal 75 al 78 è stata quella che ha maturato la decisione di tornare in Italia. Tornare in Italia con un impegno di prepararmi per ritornare in Bolivia, chiaramente. Dopo aver sperimentato, conosciuto la lingua, ma soprattutto i costumi e vedere l'abbandono che esiste ora. E dopo aver visto tristemente sul posto bambini morire, persone giovani, anziani, comunque abbandonati a se stessi nella salute. E lei è tornato e si è messo a studiare? Nell'84 io a Padova, al QAM di Padova, ho fatto l'Università di Padova e ho terminato i miei studi. Nell'85 ho scelto tornare in Bolivia come medico, già come laureato, diciamo, con poca esperienza, naturalmente non avevo avuto i tempi per fare esperienza. Ho fatto l'università, quindi mi sentivo uno studente in medicina laureato. Venire a vedere da questo punto di questo nuovo obiettivo e con questo nuovo infocchio della realtà dal punto di vista della salute. Ho scelto un posto qua, ecco, adesso a parlare, sono qui in Ansaldo, siamo a una settantina di chilometri dalla città, parte rurale, una zona povera, zona abbandonata, tristemente con servizi medici, e lì piano piano mi sono messo con l'idea di restare e di fare quell'organizzazione che poteva essere un piccolo centro medico risposta ai bisogni che c'erano qua. Questo progetto è sostenuto grazie ai contributi che provengono da persone che conoscono la sua opera? Io ho sempre trovato molta molta solidarietà, molta amicizia, c'è sempre stata gente amica, persone amiche, persone che sono solidarizzate, sono state più vicine, quelle alcune si sono perse, altre si sono rinnovate, altre ci sono ancora. Parliamo un attimo della Bolivia, lei giustamente parlava della zona rurale dove lei opera e ci ricordava che in questa zona è una delle zone povere, depresse del paese, l'assistenza alle persone non è scontata. No, lì l'assistenza sanitaria è intanto a pagamento, non esiste la salute per tutti, quindi questo è quello che troviamo già subito, quindi uno che ha accumulato nella sua vita anche la previsione per la salute e può quindi accedere ai servizi medici in città o dove ci sono, allora quello ha la possibilità, diciamo, di salvarsi da eventuali situazioni critiche o malattie o dove bisogna fare anche la chirurgia a pagamento. Io adesso è protetto solo il binomio mamma e bambino, poi gli altri invece sono sprotetti. Quindi questo di trovarmi qua con queste situazioni dove veramente arrivano persone che hanno dalle fratture alle malattie, noi abbiamo qua una malattia importante che è la malattia di Chagas e che ha una sua prevalenza e incidenza sul quella che è la salute anche di queste persone, state colpite da questa morsicatura dell'intucca, questo insetto vettore che porta la trypanosomiasi. Ed ha una patologia addominale, un addome acuto, un vomito intestinale, quindi da intervenire nel tempo possibile per poter salvare la vita. Questo è quello che stiamo facendo. Sicuramente in questi 25 anni ci sono stati tanti sviluppi, uno è quello di aver fatto anche un centro chirurgico. Il centro chirurgico è quello che dà risposte in questo senso attuale per questi casi che ci arrivano. Voi invece operate gratuitamente? La patologia mirata del vomito intestinale è gratuito. Perché? Perché gli amici che ho al mio paese dicono: noi ci impegniamo a coprire le spese del campesino che ha bisogno di essere operato. Quindi a loro chiediamo un sacco di patate, una pecora, ma è piccola cosa, diciamo, di significato, proprio per dire che il gratis è una cosa che poi si abitua o può essere, ma è minima partecipazione loro, che è come un carino, un affetto, dire ti ho dato una pecora, ma non è dare 4.000 boliviani, che è il valore della chirurgia, che sono 400 euro, che qui 400 euro vuol dire lavorare minimamente 4 anni, farsi dei debiti o diventare ancora più poveri di quelli che sono. Tra l'altro mi pare di capire che anche le medicine durante anche i ricoveri non siano gratuite in Bolivia. Tutto, quello che riguarda la salute, medicine, laboratorio, spese dei viaggi, spese delle radiologie, tutto quello che riguarda la salute è a pagamento. Per questa puntata è tutto, l'augurio di una buona giornata da Valentina Furlanetto, mentre vi rinnovo l'appuntamento per la prossima puntata, 14:15, sempre sulle frequenze di Radio 24 e sulle 24 ore, la domenica. Una buona giornata a tutti, ciao!